Mezzogiorno di Simone Spezia. Partite truccate dalla Camorra in Serie B, 10 arresti, indagato Armando Izzo, difensore del Genoa, è convocato da Conte per lo stage dell'Italia. In Austria si attendono i voti per posta, saranno quelli a decidere il presidente, intanto al Brennero arrivano 80 poliziotti in più per i controlli. Referendum, dopo le parole di Maria Elena Boschi, interviene Renzi e corregge: rispettiamo tutti i partigiani. Taglieggiati e minacciati per 4 anni, alla fine denunciano, in centro a Palermo sgominato il racket contro i commercianti del Bangladesh. Il comune di Ferrara chiede gli arretrati alla chiesa, 100.000 euro tra IMU e ICI, il vescovo si appella a Renzi, chiuderemo le scuole. Quarto ordigno in pochi mesi contro una parrocchia di Fermo, secondo Don Vinicio Albanesi viene colpito l'impegno nel sociale, appunto, di queste chiese. La battaglia di Como contro le paratie, il cantiere sul lungo lago fermo da 4 anni, cartoline al governo dai cittadini, compresi Zambrotta e Van de Sfros, che sarà nostro ospite. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che si succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp, ci potete anche scrivere effettogiorno@radio24.it e poi c'è il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura parliamo delle infiltrazioni della Camorra nella Serie B. Laura Vigiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Partite di calcio truccate che hanno fruttato anche 400.000 euro emergono da un'altra indagine dei carabinieri coordinata dalla DDA della Procura di Napoli, che oggi ha portato ad una operazione contro il clan Vanella Grassi e a 10 arresti. Tra sms, intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di collaboratori è stata provata la capacità di influenzare alcune partite del campionato di Serie B della stagione 2013-2014. Sotto la lente l'Avellino Calcio risultano coinvolti l'attuale difensore del Genoa convocato per lo stage della nazionale tra gli europei, Armando Izzo, che non ha ricevuto misura cautelare, è bene precisarlo. Il centrocampista della Cireale, Francesco Millesi, ora ai domiciliari, entrambi già in forza all'Avellino, ai domiciliari anche l'ex calciatore Luca Pini, per loro si ipotizza il reato di partecipazione esterna all'associazione mafiosa. La frode sportiva è invece contestata al calciatore Maurizio Peccarisi. Secondo le indagini, il capoclan Umberto Accurso, già in carcere, i suoi affiliati avrebbero coinvolto i soggetti che hanno messo a disposizione il denaro per corrompere i giocatori, influenzando direttamente 2 partite disputate nel maggio 2014, Modena-Avellino e Avellino-Regina. Prima di queste gare era fallito il progetto relativo ad altre 2 partite in cui l'Avellino ha giocato contro il Trapani e il Padova. La posizione di Izzo è da verificare, ma dai documenti emergono dichiarazioni che spiegano una sua vicinanza e parentela con un elemento ritenuto di spicco nel clan Vanella Grassi operante a nord di Napoli e che parlano della sua incondizionata disponibilità nei confronti del clan. Dapprima per divenire organico, poi solo nel settore delle frodi sportive grazie alla sua carriera in crescita nel calcio professionistico, ma ovviamente tutto questo dovrà essere ancora approfondito dagli investigatori. Ti ringrazio, grazie a Laura Vigiano per questo aggiornamento. Adesso ci spostiamo in Austria, si attendono i voti via posta. Vittorio Daroldi, inviato del Sole 24 Ore, saranno quelli decisivi, ci sembra di aver capito, no? Sì, esattamente, qui a Vienna si respira l'aria proprio dell'attesa dei grandi eventi, perché naturalmente questi 885.000 voti che sono stati inviati per corrispondenza dovrebbero decidere chi è il nuovo presidente, tra appunto Norbert Hofer, che è in vantaggio con 51,9% dei voti al seggio contro il 48,1% del rappresentante dei Verdi Alexander Van der Bellen. Quindi tutto dipenderà da questo conteggio, che naturalmente verrà dato nel pomeriggio, ma attenzione, si è già cominciato le prime polemiche, perché il segretario del partito dei liberal nazionali, Strache, ha già minacciato ricorso se non dovesse appunto vincere il candidato di estrema destra, perché parla di possibili brogli, e naturalmente questo vorrebbe dire ricontare tutti i voti. Insomma, la situazione si sta rendendo sempre più complessa, una situazione che è abbastanza poco consueta in Austria, dove le operazioni di voto si svolgono regolarmente, i seggi si chiudono alle 17 e quindi i conteggi normalmente a fine giornata sono già ultimati, ma qui sta cambiando tutto. Insomma, il paese è veramente al centro di una forte crisi, perché è una partita che non solo si gioca fino all'ultimo voto, ma è un paese spaccato esattamente a metà su temi come i migranti, l'Europa e l'eventuale chiusura del Brennero, quindi una situazione veramente complessa. Se non ci sono altre domande da studio, vi ripasso la linea. No, io ti ringrazio, grazie a Vittorio Darold, che torneremo a sentire nel corso della giornata nei nostri notiziari naturalmente. Già ci parlava del Brennero, ebbene oggi tra l'altro al Brennero sono arrivati altri 80 poliziotti da Vienna proprio per il controllo dei confini. Vi ricordo che oggi nella nostra rubrica autotrasporti torneremo a parlare di Brennero e soprattutto dell'impatto economico che potrebbe avere una chiusura a partire dalle 13.45 come sempre tutti i lunedì. Torniamo alla cronaca noi iniziando da un'operazione anti-racket a Palermo. Anni di umiliazioni, racket e minacce. Se volete lavorare a Ballarò, dovete pagare, dicevano i boss mafiosi ai commercianti stranieri, per lo più del Bangladesh, che operano sulla piazza palermitana. E loro pagavano oppure subivano intimidazioni, pestaggi, si trovavano l'auto o il negozio incendiati. Tutto questo fino a un mese fa, quando una decina di loro, tutti immigrati, hanno trovato la forza di parlare. Il capo della squadra mobile, Rodolfo Ruperti. L'operazione ha preso il via da un tentato omicidio che c'è stato un mese fa ai danni di un ragazzo del Gambia. 10 i fermi fra gli esponenti di un gruppo criminale che fa capo alla famiglia Rubino, un clan di giovanissimi. I reati a loro contestati sono tentato omicidio, estorsione, incendio, rapina, violenza privata e lesioni personali. E vengono contestate aggravanti sia del metodo mafioso che quella dello sfondo razziale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Uscito dal CARA di Mineo, ha ucciso due persone. Ora l'avvocato del figlio chiede i danni al Viminale. È colpa anche dello Stato se i miei genitori hanno fatto questa fine. Rosita Solano, figlia delle vittime, aveva accusato le istituzioni sin dal primo momento e ora chiama in causa il Viminale come responsabile civile nel processo davanti alla Corte d'Assise di Catania. L'imputato è Mamadou Camara, il 18enne ivoriano accusato di aver ucciso i suoi genitori il 30 agosto 2015 nella loro villa di Palagonia per una rapina. Vincenzo Solano, 68 anni, e Mercedes Ibáñez, 70, quest'ultimo sarebbe stata anche violentata. La richiesta è stata depositata dal legale della famiglia alla vigilia del processo che si è aperto oggi. Secondo il penalista Francesco Manduca, il Ministero dell'Interno ha colpa in vigilando. Era responsabile dell'imputato che si è allontanato nelle ore notturne dal CARA di Mineo, cosa che è vietato fare, e la mattina dopo è rientrato nel centro di accoglienza richiedenti asilo dopo aver trucidato la coppia. Il Viminale, insomma, avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto nel modo giusto. È arrivato il momento di avere una giustizia certa ed esemplare, ha detto ancora la figlia oggi, lamentando l'assenza delle istituzioni che, dice, dal giorno dei funerali non si sono fatte più sentire. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La pagina politica, iniziando dalle polemiche sul referendum. Torna sulla querela riguardo ai partigiani. Matteo Renzi nega il premier che il ministro Maria Elena Boschi abbia fatto gaffe nella trasmissione Mezz'ora di Lucia annunziata sul referendum costituzionale. L'Associazione Nazionale Partigiani si è schierata per il no, ma secondo il ministro Boschi i partigiani veri, questa è l'espressione usata, voteranno sì. Stamattina Renzi corregge il tiro fra i partigiani che hanno fatto la resistenza, dice il premier, qualcuno voterà no e qualcuno sì. Il diavolo, Germano Nicolini, 97 anni, voterà a favore pur non essendo renziano. Insomma, precisa il premier, ci sono partigiani veri che voteranno sì e partigiani veri che voteranno no. Il governo li rispetta tutti. Parole che ieri avevano fatto infuriare la sinistra Dem e stamattina da Sinistra Italiana Stefano Fassina chiede che Boschi si scusi con l'Ampi. Dall'opposizione Matteo Salvini della Lega attacca: abbiamo un governo di matti e per questo bisogna votare no e mandarli a casa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Più vicino dell'appuntamento elettorale col referendum è sicuramente quello delle amministrative. Inizia oggi un viaggio di Radio 24, lo troverete nel giornale radio delle 7. Qua in effetto giorno partiamo da Milano. Le gru smontano i padiglioni, i cantieri annunciano nuove fermate del metrò e sotto al Duomo molti più ombrellini vengono innalzati per guidare turisti da ogni parte del mondo. Un anno dopo l'apertura di Expo, Milano resta a place to be, secondo la definizione del New York Times, mentre lo spray urticante di un passeggero della linea rossa e arresti di presunti jihadisti ricordano alla capitale economica d'Italia l'incubo terrorismo. Com'è bella la città. 9 candidati sindaco, una sola donna, per un voto che a detta di più osservatori potrebbe avere ripercussioni pure su Palazzo Chigi. La coalizione di centrosinistra sostiene il vincitore delle primarie, Beppe Sala, 57 anni, ex Mister Expo, voluto fin dall'inizio da Matteo Renzi. Quella di centrodestra invece a Milano si ricompatta nel segno di Stefano Parisi, 59 anni, ex city manager della giunta Albertini. In una campagna elettorale che dagli scontri sulla moschea al futuro dell'area Expo è passata alle carte bollate sulla presunta incandidabilità di Sala, sempre più decisivi in un eventuale ballottaggio sono diventati gli altri candidati a Palazzo Marino, da Basilio Rizzo a Natalia Zaretto guardando a sinistra, da Nicolò Mardegan a Luigi Sant'Ambrogio in area centrodestra, passando per il radicale Marco Cappato o per Fuchsia People di Maria Teresa Baldini. In ogni caso, archiviata la rivoluzione arancione di Giuliano Pisapia, Milano si prepara ad entrare in una nuova era. Roma, bella la città, come grande la città. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E le notizie di oggi invece da Roma. A Roma rischia di complicarsi la partita per Roberto Giachetti. In caso di ballottaggio, il candidato sindaco del Partito Democratico non potrà infatti contare sui voti di Sinistra Italiana. Ad annunciarlo stamattina è stato Stefano Fassina, secondo il quale le distanze con il partito di Renzi sono ormai incolmabili. Giachetti per ora non commenta, ma nel pomeriggio presenterà la squadra di assessori con la quale punta a guidare la capitale. A surriscaldare il clima nella campagna elettorale a Roma, in queste ore intanto c'è anche Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale. La proposta di intitolargli una via, arrivata da Giorgia Meloni, ha subito alimentato nuove polemiche ed è stata bocciata dalla comunità ebraica, da tutta la sinistra, ma anche dal leader della destra Storace, che invita la candidata di Fratelli d'Italia e Lega a non usare Almirante per raccattare voti. Almirante interessa più della sicurezza di una strada, ironizza invece la candidata 5 Stelle, Virginia Raggi, sempre nel centro. Centrodestra a farsi sentire e anche Silvio Berlusconi, che ieri è tornato a criticare la candidatura di Meloni, difendendo invece la scelta di puntare su Alfio Marchini, l'unico a suo dire in grado di vincere un eventuale ballottaggio con Raggi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oggi si commemora la strage di Capaci. 50.000 giovani collegati da tutte le parti d'Italia con il cuore qui, nell'aula bunker del Luciardone, e come sempre la speranza negli occhi dei ragazzi, degli studenti, degli scout e dei tanti militanti. Creare, mettersi, schierarsi dalla parte giusta. Allora, indubbiamente quello che stiamo facendo oggi è una cosa molto importante, però secondo me la legalità comunque deve essere uno stile di vita, perché per poter arrivare a raggiungere questo per ora ideale bisogna, diciamo, attuarlo ogni giorno. Sono 800 qui a Palermo in una cerimonia in cui non c'è solo il ricordo ma anche una promessa che viene di volta in volta, anno dopo anno, ribadita e sottoscritta. Lo Stato non darà tregua alla mafia, alle mafie, a tutte le organizzazioni criminali vecchie e nuove. C'è il Presidente del Senato Pietro Grasso, che al maxi processo fu giudice, e ci sono i rappresentanti del governo, i vertici delle forze dell'ordine, della regione e magistrati. Come sempre, a mostrare il fronte compatto in una guerra, quella contro la mafia, che si combatte anche così. C'è oggi anche il presidente del Parco dei Nebbio di Giuseppe Antoci, bersaglio delle cosche e sfuggito nei giorni scorsi a un attentato, a dimostrazione che le mafie non sono affatto sopite, ma ancora vive e pronte a colpire. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Abbiamo parlato in apertura di calcio e scommesse, adesso ci occupiamo di calcio e sicurezza, perché se doveva essere un test per gli europei, quello della finale della Coppa di Francia è andato decisamente male. Dario Ricci, ciao, buongiorno. Eh sì, sembra, caro Simone, essere diventata davvero una scommessa ancora tutta da vincere, quella di garantire la sicurezza di questo Euro 2016, che lo ricordiamo scatterà il 10 giugno a Parigi e il 10 luglio sempre a Saint-Denis vivrà la sua finalissima. Perché? Perché sabato sera c'è stata la finale di Coppa di Francia, Paris Saint-Germain-Marsiglia, proprio a Saint-Denis, peraltro squadre fortemente rivali, e l'unica cosa che è andata bene è stato lo svolgimento della partita in campo, con il solito Ibrahimovic protagonista. Tutto quello che doveva funzionare come prova generale in termini di sicurezza, cioè anche l'aver posto diversi step per il controllo degli spettatori, una sorta di reticolato alto più di 2 metri, per ostacolare l'ingresso di oggetti contundenti e di vario tipo, sembra invece essere andato male per la stessa ammissione del prefetto della regione di Saint-Denis, Philippe Galli. Sono entrati fumogeni, sono stati utilizzati petardi nelle stazioni metro in avvicinamento allo Stade de France, ci sono stati tafferugli tra le due tifoserie e soprattutto anche il procedere dei controlli è stato ostacolato dalla folla all'ingresso dello stadio. Quindi una solenne bocciatura. Galli e le autorità preposte hanno garantito che il sistema verrà rivisto e ricalibrato, ma questa vale la pena chiosare su questo aspetto: non è una sconfitta dei cugini francesi, per cui se ne può quasi godere, tra virgolette. Se questo sistema non funziona, saranno problemi per tutti. Evidentemente, comunque ci sono un paio di settimane, speriamo che riescano a correggere, grazie al nostro Dario Ricci per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, riprendiamo dopo il traffico come sempre con il nostro consueto giro per l'Italia. Inizieremo da Ferrara, dove il comune ha deciso di chiedere gli arretrati di IMU ed ICI alla chiesa. Il vescovo ha scritto a Renzi dicendo: ragazzi, così chiudiamo le scuole. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'inchiesta che incrocia Camorra e forse partite truccate in Serie B, abbiamo parlato del referendum costituzionale, della correzione di Renzi, abbiamo parlato di elezioni austriache, abbiamo parlato di racket a Palermo. Adesso iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia, che vi ricordo da oggi, siamo ancora in fase di beta test, però è diventato anche una mappa che potete trovare collegandovi al nostro sito www.radio24.it, la sezione effetto giorno. Andate negli extra e troverete la mappa e piano piano metteremo tutti i link anche ai file audio delle interviste che abbiamo fatto. Potrete localizzare i luoghi dei quali abbiamo parlato. E andiamo innanzitutto a Ferrara. Torna da noi Tiziano Tagliani, che ne è il sindaco. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno. Abbiamo parlato di strade l'altra volta, invece adesso parliamo di ICI e IMU alla chiesa, perché sono arrivate le richieste dal vostro comune a una decina di parrocchie, a quanto pare, 100.000 euro di arretrati. E il vescovo ha scritto a Renzi dicendogli: oh, guardate, così noi chiudiamo le scuole perché non abbiamo più i soldi. Come se ne esce, sindaco? Beh, allora chiariamo, non solo noi, è uscita una sentenza della Cassazione lo scorso luglio del 2015 che impone la verifica di volta in volta se gli immobili ad uso scolastico delle parrocchie, cioè degli enti ecclesiastici, quando vengono utilizzati per le scuole, siano attività di carattere profit o no profit, cioè attività lucrative oppure no. Questo, diciamo così, ha fatto scatenato da parte di molti enti locali la richiesta doverosa di pretendere il pagamento dell'IMU su queste superfici, quando ovviamente siano affittati a terzi per svolgere queste attività, ma questo non è un problema. Sì. Il problema riguarda quando l'attività è gestita in proprio dall'ente ecclesiastico. Allora, siamo tutti in difficoltà perché non possiamo entrare, diciamo così, nei bilanci dell'ente ecclesiastico delle singole parrocchie per vedere quanto sia profit o non profit. E questo significa, da una parte, che siamo costretti a esigere l'imposizione fiscale, cioè il pagamento dell'IMU per gli anni scorsi, e dall'altra parte però siamo anche chiamati parallelamente a dare dei contributi, come facciamo tanti enti locali, perlomeno quelli dei capoluoghi, sì, Emilia Romagna, tutti quanti da ormai decenni, alle paritarie. Quindi, da una, certo, parte chiediamo e dall'altra li prendiamo, quindi, che è veramente un paradosso. Quante uscite avete, per curiosità, per le scuole paritarie? Ogni anno il bilancio del comune delibera un importo differente in base alla disponibilità, sì, di bilancio. Quest'anno siamo a 230.000 euro. 230.000 euro, e nel frattempo gliene chiedete, diciamo per così dire, 100.000, esatto. 100.000 indietro. Qual è la soluzione, sindaco? Che le parrocchie vi diano in mano i loro bilanci per capire, mi sembra non del tutto plausibile, anche perché non sono delle società di capitali, quindi la lettura dei bilanci delle parrocchie non è esattamente come quella di una società con una contabilità diciamo ordinaria o semplificata, sì. Quindi l'ipotesi più semplice sarebbe che uscisse una direttiva, una circolare ministeriale che chiarisse entro quali limiti si intende profit l'attività oppure no. Una quota delle rette deve coprire comunque i costi, basterebbe una percentuale di questa copertura, esimere coloro che stanno sotto una certa quota di copertura e invece coloro che coprono i costi, diciamo così, imporre, lasciare quello che è giusto, cioè un'imposizione fiscale, altrimenti la soluzione, come spesso capita, è rimessa alle decisioni delle commissioni tributarie, alle quali gli enti ecclesiastici faranno come hanno ricorso, però occorrono poi mesi per decidere. Esatto, e poi in 30 secondi, sindaco, così è un macello, perché ogni commissione tributaria può decidere un po' come le pare, insomma, assolutamente, no? pur stando nei principi di diritto, insomma, però, e quindi, cioè, come dire, si crea una grande incertezza sia per voi che per le parrocchie. Esatto. Allora, la ringrazio, grazie a Tiziano Tagliani, sindaco di Ferrara, per essere stato con noi, e noi continuiamo a parlare di parrocchie, ma per tutt'altra vicenda, parrocchie minacciate. Don Vinicio Albanesi, parroco di San Marco alle Paludi, a Fermo, e siamo nelle Marche. Buongiorno Don Vinicio. Buongiorno a voi tutti. E benvenuto. È stato ritrovato un barattolo con una miccia e una sigaretta accesa davanti alla chiesa di San Gabriele dell'Addolorata a Campiglione di Fermo. Sì. Il punto è che il quarto ordigno di questo tipo che viene ritrovato davanti a una parrocchia a Fermo, e lei mi sembra, Don Vinicio, che stia connettendo tutto questo all'attività che soprattutto lei, con lei come ruolo guida, ma anche le altre parrocchie state mettendo in atto nel sociale, no? Sì, sì, perché tutti e quattro i preti in qualche modo sono parroci, ma anche attivi nell'aiuto a chi ha bisogno, agli immigrati, agli italiani, a quanti hanno necessità di un qualche sostegno. Si è fatto un'idea di da dove nello specifico possano arrivare queste minacce? Non so. No, noi non abbiamo avuto nessun segnale, né telefonate, né lettere, né minacce, quindi brancoliamo nel buio, anche perché non riusciamo a capire. Sappiamo una cosa, prima di tutto, che è rivolta ad alcuni preti e non ad altri. La seconda è che sono preti impegnati nel sociale, e la terza che è un territorio ben definito, per cui chi mette questi ordigni sa bene la nostra vita, come ci muoviamo, chi siamo, e quindi colpiscono in maniera molto precisa. Tra febbraio e marzo, ricordiamo, due ordigni hanno danneggiato il portone del Duomo della chiesa di San Tommaso. Nella notte tra il 13 e il 14 aprile è toccato proprio alla sua chiesa, la chiesa di San Marco alle Paludi. E Don Vinicio, lei esclude l'ipotesi di un mitomane? Ma, ma io sono più propenso a pensare invece a un gruppo che non vuole essere disturbato, che così, che fa malaffare, prostituzione, spaccio, questa roba qui, e quindi mi sono fatto una mezza idea che vogliano distrarre le forze dell'ordine, così loro agiscono tranquillamente. Ma è una pura ipotesi. Vedremo come andranno dunque le indagini dei carabinieri. Io intanto la ringrazio, Don Vinicio Albanesi, parroco di San Marco alle Paludi, a Fermo. Noi ci fermiamo, adesso ci ritroviamo per andare a sentire cosa succede sui mercati nella seconda parte della trasmissione. La battaglia dei comaschi contro le paratie che non fanno vedere il Lungolago, lanciata dalla provincia di Como, aderiscono in tanti, anche Zambrotta, Davide Van des Frost, che sarà con noi. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli sul referendum dopo le parole di Boschi: parla Renzi, dice rispettiamo tutti i partigiani. Partite truccate dalla Camorra in Serie B10, arresti indagato Armando Izzo, difensore del Genoa, è convocato da Conte per lo stage dell'Italia. In Austria si attendono i voti per posta, sono 850.000, saranno quelli a decidere il presidente. Taglieggiati e minacciati per 4 anni, alla fine denunciano, in centro a Palermo è stato sgominato il racket contro i commercianti del Bangladesh. La borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto giorno. Allora, io non lo so pronunciare, però il titolo di questa canzone di Davide Van des Frost, che è in linea con noi, è Acqua Dolce. Quell'acqua dolce che una parte dei comaschi vede ormai da anni attraverso delle grate o attraverso dei buchi in mezzo alle barriere per il cantiere del Lungolago. Van des Frost, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, eccoci qua. Che cosa è successo? Succede che il quotidiano locale, la provincia di Como, ha lanciato una bellissima iniziativa, a dire il vero, perché per una serie di questioni anche giuridiche, se vogliamo, tra cui l'intervento per esempio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ma non solamente quello, il cantiere sul lungolago di Como è fermo sostanzialmente da 4 anni, è iniziato ovviamente da molto prima, se non erro addirittura nel 2009, e il quotidiano della provincia ha deciso di distribuire gratuitamente delle cartoline ai cittadini di Como, delle cartoline da inviare al governo Renzi, l'ha fatto pure lei, Van de Sfros, no? Sì, sì, abbiamo partecipato a questa iniziativa che sembra abbastanza tranquilla, non invasiva, però si fa sentire, c'è molta adesione, il perché lo potete capire tutti quanti. Cioè, adesso il lago di Como, va bene, il lungo lago di Como davanti a Piazza Cavour, andando avanti, credo che sia diventato come trono di spade. Siamo alla stagione 6-7, perché non c'è stato solo questo fatto, c'era stato il famoso discorso del muro, le paratie perché altrimenti il lago usciva e di fatto usciva e inondava la piazza e così via. Allora c'è stato il periodo, a stagione 1 è stata quella del muro, sì. Il muro che era diventato più famoso di quello di Berlino. Berlino non aveva più il muro, Como era diventata famosa non più, sì, per la seta, per il lago e così via, ma per il muro. Poi il muro non andava bene, è giù il muro, e poi i soldi, spese, e poi ecco che si costruisce un'altra cosa, e poi il lungolago, e poi un periodo con un recinto di legno, e poi tutta questa nuova vicissitudine che di fatto impedisce al comasco, o comunque al viandante, ma soprattutto al turista, di visitare, sì, correttamente uno dei laghi più famosi del mondo. Tant'è vero che la gente prende e usa Como sostanzialmente come punto di passaggio, cioè ci arriva e ovviamente perché non, come dire, non c'è niente da vedere attraverso una grata arrugginita, no? Sì, è chiaro che Como non ha soltanto il lungo lago, perché ha 3.000 altre cose, certo, meraviglie, per l'amor di Dio, è una città che ha, come tutte le città storiche, ha tantissime cose da vedere. Però lungo lago è una parola che ti fa venire in mente qualcosa di lungo che costeggia un lago, lì non solo non è lungo, ma non c'è più neanche fisicamente la possibilità di passeggiare, di fare la camminata nel centro nevralgico proprio dello sbocco sul lago. Allora, grazie Davide Van de Sfros per essere stato con noi, abbiamo voluto segnalare queste iniziative, magari nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci torneremo. Ci fermiamo, c'è come sempre Mario Platero con America 24 adesso e poi ci risentiamo alla fine per i saluti. Vi ricordo che lunedì effetto giorno dura un po' di meno.